Abbiamo invece in linea una lavoratrice della Telecom, perché sapete che ne abbiamo parlato, si sta montando una grande mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici della Telecom. Stamattina c'erano varie iniziative, una è quella che si sta svolgendo al Colosseo, qui, davanti al Colosseo qui a Roma, e quindi vi diamo subito la linea. Buongiorno. Salve, buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo qui tutti colleghi, tutti insieme. Sì, allora se ci dici intanto che caratteristica ha questa mobilitazione e poi ancora una volta ripeti nei motivi più generali. Esatto, allora oggi abbiamo creato una sorta di raggruppamento a flash mob, molto sereno, molto tranquillo. La cosa bella che è avvenuta oggi, e che credo che sia una delle prime volte che avviene una cosa del genere, è che altre città si sono mobilizzate nello stesso momento e lo stesso giorno. Quindi abbiamo in questo momento anche Milano, abbiamo Palermo, abbiamo Catanzaro, Napoli, Torino, Ragusa, Bari. Quindi queste città in questo momento si trovano tutte quante confluite in posti ovviamente decisi da loro, dove c'è risonanza mediatica, e tutti quanti insieme stiamo facendo questo flash mob con le famiglie, con i figli, proprio per far capire a tutti che non è una situazione, stiamo lottando ma con le armi pacifiche per poter ottenere certe garanzie da parte dell'azienda, e non distruttive ma propositive nei nostri confronti. Quali sono insomma i motivi? Perché sappiamo che c'è stata una disdetta unilaterale del contratto da parte Telecom. Sì, sì, infatti, proprio questo. L'azienda ha deciso in maniera unilaterale di annullare e quindi distruggere il contratto di secondo livello che c'era stato dato grazie a tutte le lotte sindacali che sono state fatte nel corso di tutti questi anni anche dai nostri predecessori. Per cui in maniera unilaterale ha detto ok, basta, questo viene tolto, quindi tutti i diritti anche a livello economico e di sicurezze che abbiamo ottenuto in tutti questi anni, tolti, cancellati, senza neanche dover ribattere questa cosa. Tutto questo ovviamente implica anche perdite di lavoro, perdite di soldi. Qui abbiamo persone che sono a monoreddito, se ancora, visto che già altri tagli sono stati eseguiti nel corso di tutti questi anni, ci hanno tolto la 14esima, il famoso, noi lo chiamavamo PIP, ma era un premio di produzione che veniva dato a tutti i colleghi, quindi a tutti i dipendenti, tolto anche quello, ci hanno già tolto, e noi per sacrificio diciamo per l'azienda e per chi sindacati ha detto andiamo incontro per certe cose, tagliamo di qua e facciamo di qua, e noi abbiamo detto ok, però adesso invece è arrivato il momento di dire fermatevi. Perché l'azienda sta bene, l'azienda non ha problemi, perché dobbiamo fare ancora questi ulteriori tagli? Perché cosa? Credo perché fra l'altro toglierci, scusami, i soldi, sì, vai. Credo che fra l'altro se c'è qualche azienda che gode di ottima salute sono proprio quelle dei telefoni, diciamo così. Beh, no? Diciamo che su tutti, sì, esatto, ovviamente oggi come oggi l'era di internet, no? Del 4G è ovvio che le telecomunicazioni stanno andando sempre più in alto, no? Ma la cosa è che le direttive che sono state fatte in questi anni da parte del nostro management aziendale non sono state propositive, anzi sono state pagate parecchie multe, fior di soldi per queste multe. A questo punto noi diciamo questi soldi perché ci li togliete da noi. Non ci dovete togliere a noi. Va bene, allora le multe che sono state fatte a causa di un reparto manageriale aziendale che non ha gestito bene le certe situazioni. Ora basta. Abbiamo già dato tanto, tanto di noi. Senti, se è arrivato il momento che anche loro si togliessero qualche cosa, forse. Insomma, se mettiamola così. Senti, diciamo così. Sì, io intanto nell'augurarvi buona lotta questa mattina, comunque ricordo ancora una volta che è una lotta che attraversa tutta l'Italia, che è veramente autoconvocata, auto-organizzata. È questa la cosa speciale di questo momento, che credo non a onor di storia, credo che non sia mai successa. I lavoratori si sono uniti, ci chiamiamo autoconvocati perché i lavoratori si sono uniti sotto nessuna bandiera, non ci abbiamo sindacati che ci gestiscono, siamo autogestiti da noi stessi e prendiamo iniziative noi stessi. A questo punto siamo arrivati a dover dire sentiteci, i sindacati devono stare dalla nostra parte, devono starci a sentire. Vabbè, per decidere insieme. Se questo non succedesse, voi continuate. Esatto, noi dobbiamo continuare, noi vogliamo e dobbiamo continuare questa cosa, anche perché un muro così grosso non si è mai formato. Perfetto, è allora... un muro che collega tutta la nazione. Teneteci quindi, aggiornati sicuramente su tutte le altre forme di lotta e soprattutto su quello che succederà nei prossimi giorni. Sì, noi siamo qui, come si dice, siamo sempre sul pezzo. Va bene, d'accordo, grazie, allora. Grazie a voi, grazie per la disponibilità. Ciao. Buona giornata, salve.